purtroppo i dati ci confermano che la situazione è molto grave. Ci sarà un miglioramento, ma sarà un miglioramento lento, che verrà verso la fine dell'anno e nel corso dell'anno prossimo, anzi direi più nella seconda parte dell'anno prossimo. Quindi purtroppo anche ritengo che verranno, emergeranno le tante situazioni difficili che ci sono, non solo nei casi che tutti conosciamo e che sono ampiamente mediatizzati, ma anche in quelle migliaia di piccole e medie imprese che stanno soffrendo moltissimo. Dobbiamo, noi imprenditori, poi siamo ottimisti per definizione, altrimenti non faremo gli imprenditori. Sicuramente vediamo, soprattutto nel corso del 2013, un arresto della caduta. Purtroppo nel terzo e quarto trimestre di quest'anno questo non sarà ancora effettivo. Da lì io penso che possa ripartire una ripresa, anche perché poi dovremmo poter beneficiare di tutta una serie di condizioni al contorno, in modo particolare i provvedimenti presi per un contenimento dello spread e quindi il costo del nostro debito pubblico. Qual è la ricetta di Confindustria per rilanciare la crescita? Sono tantissime cose che si possono fare. Ricordo che nel mio programma quadriennale c'era soprattutto la semplificazione normativo-burocratica del Paese, però al di là di questo credo che tutti dobbiamo renderci conto della difficoltà in cui ci stiamo dibattendo e anche pensare, in parole povere, dobbiamo anche mentalizzarci che per uscire da questa crisi dobbiamo tutti lavorare di più.